criticare realmente il carcere, parliamo di carcere, ne avrebbe tutti gli elementi che loro, i medici i penitenziari, in un convegno hanno tirato fuori. Intanto affermano questa cosa: l'80% dei 70.000 detenuti sono 70.000, 69.700, quindi siamo arrivati alla soglia dei 70.000, l'80% di questi 70.000 hanno problemi di salute, cioè sono malati. E solo il 20% è sano, percentuale ribaltata completamente rispetto a quella esterna. Che vuol dire? È un ospedale il carcere? Non è un ospedale. Ci mandano la gente malata? Mi pare di no. Evidentemente, come diceva qualcuno, il carcere è patogeno, cioè induce con la sua vita, con la sua costrizione di mancanza di vita, induce delle malattie, quindi produce patologia. E allora vediamo cosa dicono, articoliamo questo dato. Ci dicono che questo 80% che sta male in carcere, che è malato, loro l'hanno a sua volta, diciamo, l'hanno diviso in categorie. Il 38%, quindi quasi la metà di questa parte, l'38% sta in condizioni mediocri, cioè sta proprio a pezzi. Il 38%, che è quasi il 40%, quindi non c'è male. L'altro 37% in condizioni scadenti, quindi di questo 80% la metà sta malissimo, l'altra metà male, senzaissimo, e il 4% addirittura è gravissimo, cioè sta per morire. Questi sono i dati che lo dicono loro, i medici penitenziari. Poi il 30% dei detenuti in generale si è sottoposto al test dell'HIV e ne è riuscito positivo il 4%, un dato molto alto, tutti i dati molto superiori quanto a patologie rispetto all'esterno. E allora i casi sono due: o in carcere i magistrati, i giudici sono diventati così dei medici, mandano in carcere i malati, oppure il carcere produce malattia, che guarda un po' quello che si diceva con tanta rabbia quando l'abbiamo detto, e ci dicevano, ecco, i soldi estremisti, che invece il carcere rieduca, fa bene, prepara delle personcine pulite per poi andare nella società civile. E invece qui i medici, che non sono né di Onda Rossa né estremisti, anzi sono tutto il contrario, ci dicono questi dati. Dunque, addirittura il 15% ha problemi di masticazione, il 13% soffre di malattie osteoarticolari, che sono gravissime, che col tempo producono una devastazione l'11% malattie epatiche, cioè il fegato, il 9% disturbi gastrointestinali, il 7% è un portatore di malattie infettive, 1 su 3 ha problemi di tossicodipendenza. Quindi una situazione, un bel lazzaretto. Difatti il termine non è nostro, scusate, dicono è un lazzaretto, le carceri italiane sono lazzaretti, questo è il termine che è usato in questo simposio, convegno di questi belli, i medici penitenziari. Traetene voi le conclusioni, perché noi non ci piace il turpiloquio, perché qui sarebbe solo da bestemmiare, però non bestemmiamo perché non sta bene, però insomma traiamo nelle conclusioni. Quindi qualche cosa bisognerebbe fare per perché qui non parliamo di Guantanamo, dice sta laggiù, ma sì, oppure Abu Ghraib, ma in Iraq si fanno, in Afghanistan, qui sta sotto casa. Questi carceri, a volte, dipende dove abitate, nelle varie città italiane ce l'avete a qualche centinaio di metri da casa. Questi lazzaretti dell'orrore, lo dicono i medici, ce l'abbiamo tutti a poche centinaia di metri. Quindi qualcosa potremmo fare, intanto per esempio martelliamo i ministeri, i giornali, cioè ognuno faccia quello che può fare, scendiamo in piazza, scriviamo i manifesti con i pennarelli, non costano molto, no? Nemmeno i fogli di carta, tra l'altro anche la carta con cui si incarta quella quel color giallino con cui si incartano i cibi, carta da pane, può essere utile. Scriveteci delle cose, dove state, nei quartieri, scrivete di questa vergogna. Vabbè, dentro questa vergogna c'è la vergogna di quelli che questo sistema uccide, quindi lo dicono i medici. E infatti eccolo qua, due detenuti in questa settimana sono stati salvati all'ultimo momento, cioè già trovati appesi a una corda, e qualcuno è intervenuto e l'ha tirati fuori prima che la corda li strozzasse. Uno è avvenuto, era un uomo di origine domenicana, quindi proveniente da Santo Domingo, ha tentato di uccidersi, è stato salvato all'ultimo momento. Questo è avvenuto nel carcere di Augusta, in provincia di Siracusa. L'altro, sempre in Sicilia, anche questo, infatti lo leggiamo sul quotidiano La Sicilia, l'episodio è avvenuto nella casa circondariale di Brucoli. sempre di Siracusa, quindi due morti che per un pelo non sono morti, perché qualcuno, il carcere è sovraffollato, in qualche caso torna utile, qualcuno se n'è accorto, l'ha visti lì appesi, l'ha tirati giù prima che il cappio facesse il suo triste esito. Poi altra denuncia, ho detto l'Italia è il paese delle denunce, non vi stupite, il problema è il paese delle denunce, è anche il paese che non tiene mai conto delle denunce, ma non dal punto di vista dei tribunali o delle, ma dal punto di vista delle persone che dovrebbero trarne loro le conseguenze. L'altro dato viene denunciato qui, che dice il carcere è il luogo di chi non ci dovrebbe stare. Chi sono queste due categorie che non ci dovrebbero stare? Secondo me non ci dovrebbe stare nessuno, ma secondo le persone, diciamo, di buoni principi, non ci dovrebbero stare né i bambini né i disabili, e invece ci stanno. E quando queste persone di buoni principi, quelli che credono nella società, che questa società è la più giusta che possa esistere, che insomma va quasi tutto bene, si indignano perché dice: che fanno questi 56 bambini dietro le sbarre? Che fanno? E che fanno poi i 500 dati? E qui chi scrive questa roba indignandosi indigna anche perché il dato dei disabili, 500 sono i disabili che stanno dietro le sbarre, questo dato risale al 2006, perché indegnamente, quando uno si indigna scopre l'indegnità, e non è un bisticcio di parole, del Ministero di Grazia e Giustizia, che indegnamente non ha aggiornato questi dati, e questo ha dovuto trovare i dati del 2006, che sono 2500 le persone invalide realmente disabili, cioè molti sono carrozzati, molti hanno appunto difficoltà o impedimento di deambulazione, non si capisce perché stanno in carcere, dove potrebbero scappare. Vi immaginate un carrozzato che fugge dal carcere? Ecco, fatelo un film questo, perché capite uno, il carcere che non si può giustificare da nessun punto di vista, però loro, i secondini, lo giustificano dicendo: ci stanno le sbarre e le mura, altrimenti voi scappate. E va bene, ammesso che, mettiamo che il secondino abbia una volta tanto ragione, ma allora perché i disabili che non possono scappare? Loro potrebbero stare benissimo, diciamo, come infatti tra l'altro la legge lo prevede, agli arresti domiciliari. La legge prevede, il famoso articolo 47 del codice penale prevede che se uno ha impossibilità, diciamo, di vivere in carcere, appunto perché tra l'altro il carcere è fatto di scale, scaletti, immagino che disastro è per chi è carrozzato. E sono 500 i disabili, dato il 2006, la persona che si è indignata dice: probabilmente sono molti di più. È vero, saranno sicuramente molti di più. Poi arriviamo dunque al dato dei al dato del pacchetto di sicurezza. Pacchetto di sicurezza perché c'è, in tutto questo marasma che sta succedendo in questo paese, il pacchetto di sicurezza di cui ne abbiamo parlato dettagliatamente due mercoledì fa, però ne continuiamo a parlare, che è quello che prevede il reato di prostituzione, introduce un altro reato, non ce ne sono pochi in questo paese, che aggrava la situazione, cioè peggiora la situazione per l'espulsione dei cittadini, non solo extracomunitari ma anche comunitari. Cioè, un articolo di questo nuovo, di questo pacchetto di sicurezza bis, prevede anche l'espulsione del cittadino proveniente da un paese comunitario, quindi della comunità europea, uno che ha per motivi di ordine pubblico, quindi dato anche questo generico, non necessariamente si è commesso un reato, ma quindi non per che successivamente a una condanna, ma per motivi di ordine pubblico. E non si capisce che cos'è il motivo di ordine pubblico, cioè molto generico, labile, come ampio, troppo elastico come dato. Quindi per motivi di ordine pubblico anche un cittadino della comunità europea può essere rispedito a casa. E, cioè, questo poi a questo pacchetto è prevista anche il rientro dal decreto Pisano, quello che aveva messo l'individuazione del nome e cognome in quelli che vanno nell'internet point, questo dovrebbe andar via. E insomma, tutto. Poi c'ha gli ispettori dell'ASL, il ministro per diciamo per l'intervento delle aziende sanitarie locali sui problemi nei luoghi di lavoro quando vengono denunciate violazioni in materia di tutela o di igiene o anche di sicurezza, quindi diciamo anche una responsabilità da parte dell'ASL, insomma una serie di cose. Però c'è un problema che appunto avete letto dai giornali, o la televisione o la radio, hanno detto che in realtà è iniziato l'iter della crisi di governo. Faranno i numeri stamattina tutti presi precisi, io non manco me li ricordo bene, in fondo. Comunque pare che il 14 dicembre voteranno la finanziaria, subito dopo discuteranno le mozioni di sfiducia e quindi probabilmente può darsi che il governo cada entro la fine dell'anno. Da allora si inizierà un percorso di consultazione eccetera per individuare una fase di transizione e probabilmente dicevano a marzo si voterà nel caso che non si risolve la crisi. Questi i dati che uscirono stamattina dai giornali. Questa cosa probabilmente renderà il pacchetto di sicurezza, questo bis, traballante. Perché? Perché questo pacchetto di sicurezza, come abbiamo detto la volta scorsa, era diviso in due tranche, in due tronconi. Nella prima era stato alcuni provvedimenti erano stati fatti per decreto, quindi sono già operanti, perché sabato è stato firmato, quindi è già operante questo decreto qui, quindi l'espulsione per le persone comunitarie per motivi di ordine pubblico è possibile, il reato di prostituzione è possibile, tutta questa serie di cose sono già attive, però il decreto legge, sapete, deve essere convalidato dal Parlamento, da tutti e due i rami del Parlamento entro 60 giorni. Ora 60 giorni da sabato scorso va proprio a cadere in piena crisi di governo, quindi può darsi che allora il Parlamento abbia altro da fare che non e quindi se non viene approvato entro 60 giorni decade questo decreto. L'altro troncone, perché aveva diviso appunto i provvedimenti, un troncone decreto legge già attuato che però va convalidato entro 60 giorni e un altro decreto in disegno di legge, cioè un disegno di legge che dovrà percorrere tutte le fasi del parlamentari in commissione, poi alla Camera, al Senato e così via. Ecco, anche questo cadrà in piena crisi e quindi non è detto che il pacchetto di sicurezza possa pacchetto di sicurezza bis abbia vita facile per poter appunto andare avanti. Un elemento che era molto, molto interessante, perché credo che abbiamo avuto a che farci tutti noi e tutte noi, parlo di quelli che stanno fuori chiaramente, il fatto che i precedenti leggi ed anche il precedente pacchetto di sicurezza, in specifico la legge ed anche una legge, la cosiddetta 187 del 2000, ricordate, quella che dava più poteri, molti poteri anche di ordine pubblico, anche di polizia, ai sindaci. Vi ricordate il discorso dei sindaci sceriffi, tutta questa cosa qua? Bene, che cosa è successo nel frattempo in questi 10 anni? Questa 187 ha operato in molte cittadine, i sindaci hanno fatto veramente gli sceriffi e dava competenze di sicurezza urbana, di pulizia, di decoro urbano, di polizia e pulizia urbana, incolumità pubblica. Praticamente molti sindaci, prendendo diciamo esageratamente questa legge che concedeva dei poteri a loro, li hanno esaltati questi poteri e si sono messi a fare gli sceriffi. Ricordate, alcuni hanno vietato di fare il picnic, di fare la colazione al sacco, cioè di mangiare anche a Firenze. Ricordate, venne messo quel divieto in cui il sindaco mise quel divieto in cui era Firenze è una città che viene seguita da molte persone, molti studenti che vengono da tutte le parti del mondo per vedere gli Uffizi o altre bellezze di quella città, interessanti sicuramente, e era impossibile, cioè vietato mangiare al sacco, cioè mangiarsi un panino per strada, bere una Coca-Cola o un'aranciata per strada, insomma, questi divieti qui, no? Sedersi sui gradini di una chiesa era un po' invasiva, ecco, l'hanno dichiarata un po' invasiva. Anche la mendicità, molti sindaci avvalendosi di questa 187 l'hanno fatta diventare un reato, e qui torniamo poi nella seconda parte a vedere quando la mendicità era un reato, ma dobbiamo tornare molti secoli indietro. Insomma, allora questa seconda parte del pacchetto di sicurezza voleva regolamentare questi poteri rispetto ai quali alcuni sindaci sono un po' troppo allargati, ridando un rapporto sindaco-prefetto. Il prefetto è colui che è il funzionario di Stato, cioè colui che porta diciamo il parere dello Stato all'interno delle valutazioni e dei percorsi che fa il sindaco. Quindi rimettere all'interno rimettere questo rapporto, riregolare, diminuire un po' questo strapotere che alcuni sindaci si erano presi in materia soprattutto di ordine pubblico e decoro urbano, i due meccanismi su cui la 187 era un po' generica e dava parecchie forze. Addirittura la forza pubblica, molti sindaci potevano utilizzare la forza pubblica, cioè polizia, carabinieri, Guardia di Finanza in particolari momenti, quindi erano diventati veri e propri sceriffi. Ecco, quindi questo secondo pacchetto vorrà regolamentare questo strapotere di alcuni sindaci, però probabilmente slitterà, perché appunto capita all'interno di una crisi di governo. Interrompere questa bella canzone che per distrarci un po' dai problemi di questa trasmissione stavamo intonando insieme qui in studio a microfoni spenti. E dunque, a proposito di denunce, qui adesso abbiamo una denuncia che però parte dai detenuti stessi, e sono dei detenuti siciliani che si sono rivolti alla Corte Europea di Strasburgo, e assistiti da un avvocato, ed vogliono denunciare appunto, cioè denunciano la loro situazione nelle carceri e chiedono appunto un risarcimento danni per le condizioni disumane. E nel ricorso ci sono 50 reclusi e raccontano appunto la loro vita tra topi, scarafaggi, celle piccolissime senza riscaldamento, insomma quello che loro chiamano proprio testualmente siamo all'inferno. E quindi vediamo un po' che succede. Appunto questi detenuti vivono tra scarafaggi, topi, celle sovraffollate, infreddoliti, senza acqua calda, e scontano tra l'altro pene per rapine, furti, spaccio, però assicurano, e questo testuale, che baratterebbero i loro anni di reclusione con 2 giorni tra le fiamme dell'inferno, perché questo è già l'inferno, raccontano appunto. E adesso questi in 50 hanno deciso di ricorrere appunto contro lo Stato per queste condizioni ritenute disumane e si sono rivolti alla Corte Europea per i diritti umani. Sono i detenuti di 4 carceri siciliane e del penitenziario pure di Forni di Salerno, che tra l'altro è famoso per il più alto tasso di suicidi. Poi ci sono altre carceri, tra le quali appunto sono arrivate denunce anche dal Lucciardone, il Pagliarelli, il penitenziario di Castelvetrano e la casa circondariale di Giarre. E a raccogliere appunto le proteste di questi carcerati, che hanno tutti tra i 25 e i 40 anni, è stato appunto questo avvocato Massimiliano Morfettini, che di detenuti tra l'altro si occupa già da diversi anni. E dunque, cosa ha fatto questo Massimiliano Molfettini? Ha stilato un questionario. Attraverso questo questionario, questo legale ha collezionato tutti i racconti molto densi di sofferenza, e difatti spiega appunto l'avvocato, dice: il ricorso, dice, è un'idea che ho sviluppato dopo i colloqui con i miei assistiti. E evidentemente è rimasto molto perplesso anche lui, pur avendo a che fare con i detenuti da tempo. E dice ancora, dice: adesso chiederemo un'equa riparazione per il danno che viene arrecato al detenuto. Sosteniamo che c'è stata una violazione dell'articolo 3 della Carta dei diritti dell'uomo per i trattamenti inumani e degradanti. I detenuti sono assistiti tutti con il gratuito patrocinio. Questi racconti che emergono appunto denunciano casi di sospetta malsanità, sovraffollamento delle celle, mancanza di socializzazione, violazione delle norme igieniche e delle condizioni appunto di vivibilità all'interno di questi penitenziari. E appunto le voci appunto dal carcere sono tutte raccolte in questo dossier preparato da Molfettini. Per esempio sentiamone una, questo è Giuseppe, ha 40 anni ed è a Lucciardone, e testuale racconta, dice: le celle sono per la maggior parte con letti a castello a tre piani. Una notte, dice, tra le prime che ho trascorso in carcere, sono caduto dalla mia branda. Evidentemente era era la prima notte, sarà stato pure agitato tra l'altro. Dice che era questa branda proprio al terzo piano, a 2 metri di altezza. Dice: sono caduto e ho riportato contusioni in tutto il corpo e devo ringraziare il cielo se non è andata peggio. Poi, ma al carcere Lucciardone, oltre al sovraffollamento, basti pensare che da 8 anni si attende l'inaugurazione della 6ª sezione, che aggiungerebbe 200 posti, sono 8 anni che aspettano. Ma c'è anche un altro problema, un problemino non da niente, ed è quello dei bagni. Nell'area dedicata appunto all'ora d'aria, i servizi igienici sono guasti. Ora racconta Andrea, per esempio, 23 anni, dice: ci è stato chiesto, udite udite, gli è stato chiesto ai detenuti di autotassarsi, cioè praticamente, se volete, scusate, ma pisciare e cagare dovete dare 10 euro. Dice: ci è stato chiesto di autotassarci con 10 euro per ripararli. Abbiamo rifiutato, voglio vedere, al minimo. Dice: abbiamo rifiutato questa assurda richiesta, anzi è molto ingentilito a stare in carcere. Allora è vero che rieduca il carcere, perché per dire questa assurda, che lo trovo proprio un eufemismo, questa assurda richiesta. E così ci ritroviamo a doverci tenere la pipì durante il tempo all'aria aperta, perché ovviamente non possono tornare in cella. Dice: una delle situazioni ritenute più gravi per la maggior parte dei detenuti è quella, tra l'altro, anche della mancanza di acqua calda. Hanno risolto, perché visto che non possono pisciare non avranno neanche bisogno di farsi il bidet, quindi non hanno bisogno neanche dell'acqua calda. Dice un detenuto del carcere di Contrada, dice: facciamo le docce fredde a Castelvetrano. Poi in più ad agosto, proprio sulle condizioni penitenziarie trapanese, un deputato nazionale, questi deputati ogni tanto si svegliano, ha gridato allo scandalo, e anche qui lo trovo un eufemismo, per la mancata realizzazione, anche qui state a sentire, dopo 20 anni dalla realizzazione del carcere, questo carcere è stato realizzato appunto 20 anni fa, ancora non è stato fatto l'allaccio alla rete idrica. Dico, senza parole non aggiungo. E poi qui si parla appunto di criminali, ma dove stanno i criminali? E poi ancora appunto non va meglio a Fuorni, dove l'unico detenuto che ricorre insieme ai siciliani è un ultra cinquantenne nato a Enna, poi residente a Napoli. In queste 29 carceri siciliane sono ospitati 8.200 detenuti, a fronte di una capienza massima di 5.500 posti. E qui un altro dei tanti funzionari, il dirigente regionale dell'ufficio del Garante, Lino Buscemi, dice: i metri quadri per detenuto non sono rispettati, appunto, termina dicendo, uno dei punti sui quali ci battiamo da troppi anni. Ecco, io quando sento personalmente queste butade, veramente, che si battono da troppi anni, che sono appunto indignati, insomma, se andiamo a vedere, dirigenti, funzionari, politici non sono mai responsabili di niente, non sono responsabili del fatto che non si provvede, che loro appunto è da tanto e tanto che lo richiedono. Questo è come la storia memoria dei bambini in carcere. Voglio dire, c'è stato un momento in cui ne abbiamo parlato spesso, ma ultimamente c'è stata tra l'altro pure una mostra fotografica. Ci siamo veramente rifiutati pure di dare questa notizia, perché veramente sembra una presa in giro, perché anche di questo stanno provvedendo, stanno guardando appunto i vari disegni di legge, ce ne sono stati diversi, e quindi però i bambini lì restano, e anche queste situazioni nel carcere continuano ad essere lì, nonostante appunto ci siano tutti questi bravi politici che vanno a guardare, che denunciano, e quindi adesso questa denuncia provano a farla anche i detenuti stessi. Speriamo, auguri. Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny, get the money. Money, money, money, money, money, money, money. Walking on a beach all disenchanted, black goose in my heart. And if they don't want now, they can stop me, and the Chico's dead. Riviera buildings, how depressing, look like cookie boxes. In my heart a hurricane's blowing, in my head a clock ticks. Tick, tock, tick, tock. Get the money, Mr. Potato. Get the money, pay the Eskimo. Di procedere con le letture del compagno appunto sul come si esplica la delinquenza, sul concetto di criminalità che già avrete sentito dalle altre puntate, vogliamo leggervi una lettera sempre di un detenuto che si esprime lui sul concetto appunto di criminalità. E questo è uno scambio di lettere che ha avuto questo Alfio da Carinola con Carmelo, che invece è a Spoleto, e ci sta un sito appunto che pubblica queste lettere, e dunque Alfio ha avuto già una esordisce parlando appunto, salutando Carmelo e facendo riferimento a un precedente scambio di lettere in cui si parlava del libro di Carmelo, che è L'assassino dei sogni, che tra l'altro la recensione la troverete pure sullo Scarceranda di quest'anno. E appunto dove Alfio dice a Carmelo, riferimento appunto a questo libro L'assassino dei sogni, che è uno dei modi appunto per far conoscere il libro, tra l'altro appunto lo diciamo anche da questi microfoni perché potrebbe essere questo il modo per farlo conoscere meglio, dice prenotare un libro in una libreria, perché dice abitualmente dice la libreria che si vede richiedere un testo da almeno due o tre persone ne ordina sempre qualcuno in più per metterlo in vetrina, dice, quindi in questo modo poi tra l'altro viene più conosciuto ed è senz'altro interessante leggerlo, anche se appunto aggiunge Alfio, dice devo confessarti che l'Italia è più un paese di scrittori che di lettori. Tra l'altro un inciso, i proventi appunto di questo libro, ripeto L'assassino dei sogni, va in parte all'autore appunto a Carmelo e l'altro e altri insomma i proventi vanno a dei progetti di solidarietà ai detenuti oppure di lotta contro il carcere. E dunque, proseguendo invece per quanto riguarda quello che dicevamo prima sul concetto di criminalità e come la pensa, dice appunto Alfio, dice: caro Carmelo, dice, fanno bene i compagni operai della FIOM a ribellarsi a chi vorrebbe sottoporli a orari di lavoro alienanti verso ogni altro interesse affettivo, culturale o anche lobbistico. Il lavoro deve tornare a essere decoroso e non mortificante, altrimenti, dice, non si torna all'800 ma al 600 prima di Cristo, quando lavorare era un disonore e comunque veniva condannato a lavorare colui che non possedeva dignità sociale. Al Capone in America vinse la concorrenza sugli altri produttori di birra e di alcol adottando lo stesso sistema di Marchionne, facendoli lavorare anche il sabato e sottoponendoli a turni notturni e domenicali. Quindi va un po' a vedere dove è la criminalità, eh? Dice, il tutto con stipendi bloccati, se non addirittura ridotti. Ma siamo sicuri che Stato e Confindustria vogliano combattere la criminalità? O piuttosto, come appare più ragionevole, vogliono imporsi loro come i soli criminali, non più locali ma mondiali addirittura? Dice, ma certamente il dubbio, dice, è legittimo. Poi ci si mette anche la spocchia retributiva dei manager, da 100 a 100 volte quella dei dipendenti. Marchionne percepisce ogni giorno la stessa cifra riconosciuta ad un singolo operaio Fiat in un anno, e poi questo lo chiamano un mondo civile il nostro? Ecco come poi scoppiano i conflitti sociali che impoveriscono ulteriormente il popolo oppresso, perché alla prima inevitabile violenza poi si alza immediatamente la bandiera delle misure speciali contro la criminalità e là subito più forze dell'ordine, più mezzi, manganelli, armi, macchine veloci e naturalmente più carceri. Insomma, dice, in una parola testuale, più in culo al poveraccio che sulla busta paga si vede sottrarre quasi il 53% e deve anche essere contento perché lo Stato magnanimo e protettore lo salva così dalla morsa della criminalità. E dice ancora Alfio, dice, c'è un bel libro scritto da un ex pubblico ministero, dice, che non sono più riuscito a rintracciare. Dice, disegnava l'Italia in una ipotetica assenza di criminalità. Questa è la situazione, disoccupazione al 41%, consumi crollati, migliaia di fabbriche chiuse. Io non so dirti le cose con gli stessi effetti del libro, comunque un'apocalisse. Ecco, vedi, perché sono cinici oltre che falsi quando tuonano anatemi contro la criminalità organizzata e le mafie. Quando dicono di combattere la criminalità, nascondono quello che è il vero intento della loro azione. Salvare le condizioni perché la criminalità permanga e progredisca e, con l'occasione e con leggi illegittime, coprire le persone di cui ci si vuole colpire, le persone di cui ci si vuole liberare, ma soltanto per un ricambio generazionale, quello che nel mondo del lavoro si chiamerebbe turnover. La criminalità organizzata, in tutte le sue manifestazioni, progredisce da condizioni sociali, culturali e ambientali ben precise che loro, potenti e governanti, conoscono bene. Noi, per esempio, crediamo di avere scelto quelli che siamo, qualcuno ne è convintissimo, della qui non si capisce bene la parola, ne ha fatto una religione da trasferire a figli e nipoti. E dunque crediamo di avere scelto quello che siamo, ma appunto abbiamo fatto il gioco dei padroni, di quelli che così mantengono il loro ruolo di classe dominante della società, mantenendo l'autorità di compiere ogni crimine economico senza mai pagarne il conto. Sotto Craxi sono spariti dalle casse dello Stato 1 milione di miliardi in 7 anni, una cifra a 15 zeri, che sicuramente è stata divisa tra molti dei galantuomini che ancora siedono tra i deputati e senatori di questa Repubblica, gli stessi che umiliano i nostri figli tacciandoli per figli di mafiosi. Per questo abbiamo perso, continuiamo a perdere, per questo non abbiamo mai votato comunista, parlo in generale perché nessuno si offenda. I comunisti, diceva il parroco del mio quartiere, dice, ti parlo del 61-62, volevano bruciare le chiese, uccidere i preti, toglievano le case a chi le aveva per prender loro, mangiavano i bambini. Io avevo 10 anni e come vedevo un corteo di gente con le bandiere rosse scappavo via dalla paura. Nel frattempo ci insegnavano che l'assessore di C era un benefattore e lo stesso era Don Carlo. Io oggi, che sto come te condannato all'ergastolo senza via di scampo, sentendo Don Ciotti e tutti gli altri falsi preti che si dicono antimafia, quando dovrebbero prima pentirsi, poi chiedere scusa e poi fare una seria autocritica, invocando per noi tutti un perdono giudiziario di almeno 10 anni. Perché se mafia e criminalità ci sono, noi le abbiamo inventate, tu e io, o gli altri come noi. Piuttosto dovremmo tutti costituirci parte civile contro lo Stato e questa società criminogena, questa sì, che ci ha privato di una vita normale per colpa di imbrogli e corruzioni politiche, che hanno impoverito i settori più deboli della società destinandoli ad arrangiarsi. Finisce Alfio dicendo: sono tutti colpevoli e criminali lor signori. Allora riprendiamo con la Caterina che ci ha lanciato. Dunque, qui c'è qualcosa di più pesante della bugia. Qui c'è proprio una costruzione storica, come stiamo cercando di decrittare, così di rendere comprensibile, anche se in maniera ovviamente succinta. Dunque, eravamo arrivati l'altra volta nel parlare alla costruzione della categoria delinquenza criminalità e allo Stato che si forma, allo Stato oppressore, allo Stato regolatore, alla società disciplinare che nasce su questa categoria per regolare il comportamento di ciascuno e ciascuna. Dunque, eravamo visti che quando nasce, abbiamo visto l'altra volta, quando nasce la categoria del delinquente, del criminale, si individuano appunto i soggetti che faranno parte e che si inseriscono in questa categoria. Viene il pazzo, il suicida, il criminale, la prostituta, e poi ci sono i servi, i servili, i vagabondi, i mendicanti, i fannulloni, i parassiti, tutte categorie che man mano si vengono a inserire, no? Poi appunto il nullafacente, il mendicante, cioè via via queste cose, e quindi si costruisce, abbiamo visto questi sono un soggetto collettivo che è i delinquenti e le classi, c'è il concetto di classi pericolose, questi sono pericolosi a prescindere da quello che fanno, quindi salta quel meccanismo che tu vieni individuato per quello che fai. Qui comincia quel percorso che tu vieni valutato per quello che sei, quindi appartieni a queste classi. Però in questa definizione non possiamo dimenticarci una delle più importanti avvenute in questa area del mondo. Noi stiamo parlando dell'Europa, come si forma l'Europa moderna, quindi con lo Stato, la regolamentazione, le figure sociali che si sono sottomesse a questo Stato, ossia il comportamento femminile, la cosiddetta delinquenza femminile. Ci avvaliamo quindi di un testo che è della fine dell'Ottocento, quindi laddove un certo Ettore Botti individua la criminalità femminile, la delinquenza femminile esattamente, usa così. E la cosa interessante è che già allora, in epoca matura, siamo alla fine, a cavallo dei secoli, tra l'Ottocento e il Novecento, si sviluppa questa individuazione appunto delle categorie che dovranno far parte di questo coacervo chiamato la delinquenza e la criminalità, quindi comportamenti, non solo reati, ma comportamenti da perseguire, da regolamentare, perché appunto man mano lo Stato assume su di sé questa quest'opera di disciplinazione che attua non solo attraverso il carcere, poi lo vedremo, ma attraverso tutte le istituzioni che sono create sostanzialmente per quel motivo, per disciplinare tutto. Quando si individua, abbiamo visto l'individuazione appunto questo coacervi delinquente, il vagabondo, il mendicante, il ladro, quello che non lavora, il pazzo e così via. E per le donne ci sono le stesse categorie, ma ve ne sono tante altre. Interessante in questo testo che ad ogni categoria comune, diciamo quella comune con l'uomo, quella uguale, tipo appunto il furto, il favoreggiamento, la ricettazione, la falsa testimonianza, compaiono quelle che sono quei cosiddetti reati, quei comportamenti che sono specifici del soggetto femminile, ossia della donna, come appunto tanto la prostituzione, ma anche l'infanticidio, l'abbandono di minore o di incapaci, l'oltraggio al pudore, il delitto contro il buon costume, oltre appunto il meretricio, che appunto la prostituzione, oltre quello appunto del delitto contro la proprietà. Quindi a fianco di questo insieme, no, che diciamo di comportamenti più che reati, che caratterizza il mendicante, non è che fa un reato di per sé, fa il vagabondo, cioè sono comportamenti umani individuali che vengono però individuati come facenti parte della categoria del crimine e valgono per tutti, oppure attentato alla proprietà, oppure vivere senza lavoro, eccetera. A fianco a questi ve ne sono altri specifici delle donne. Questo è importante perché comincia a configurarsi un doppio ruolo dello Stato, per cui il rapporto non sarà mai uguale, non sarà più da allora in poi come comportamento dello Stato e delle sue istituzioni rispetto ai due generi, ai due sessi, maschio e femmina, nel senso che la donna, oltre i comportamenti simili, ritenuti delinquenziali uguali a quelli dei maschi, ne ha altri che specifici suoi, e quindi attuerà un trattamento particolare. Questo poi lo vediamo successivamente, anche quando avverrà lo sviluppo del sistema carcerario, e quindi questa cosa qui a fianco di questa a fianco appunto delle specificità di comportamenti femminili da mettere all'interno del sistema delinquenziale, c'è anche quello della individuazione della criminalità. Avevamo detto che precedentemente a questo, diciamo, agli anni a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, sotto l'effetto proprio della fisiopatologia, delle baggianate di Lombroso, eccetera, era venuto fuori le analisi della criminalità organizzata, soprattutto quella meridionale, come dato culturale, cioè si diceva la focosità, il caldo, il carattere, tutte queste stronzate che oggi si dicono, scusate, ma non è la parola stronzate è forse troppo tenue per dire questi crimini, questi beceri che hanno individuato queste cose. Sì, per esempio, si diceva la mafia è soltanto un atteggiamento degli uomini del sud che sono particolarmente focosi, eccetera, eccetera. Invece Ferdinando Russo, che è un intellettuale napoletano appunto degli anni a cavallo tra i due secoli, 800 e 900, molto capace, comincia a dare una lettura della camorra che nel napoletano si sviluppa, e vede il passaggio, e è importante quindi che coglie l'aspetto economico di queste formazioni, e lo mette al primo posto, addirittura all'unico posto, vede soprattutto il passaggio tra il brigantaggio rurale, quello nelle campagne, e il brigantaggio cittadino, ossia urbano. In questo passaggio individua, mentre appunto il brigantaggio rurale era fatto sostanzialmente come ha attentato alla proprietà, non rubavano greggi, armenti e così via, quello cittadino si muove, quello urbano si muove subito all'interno dell'intrigo politico, usa proprio questa parola Ferdinando Russo, dell'intrigo politico, cioè diventa una forza politica, avendo individuato che all'interno della città è molto importante il meccanismo dei cittadini, cioè siamo già in epoca in cui tutti gli stati hanno fatto il cosiddetto passaggio alla democrazia liberale, nel senso che i dirigenti dei vari paesi vengono eletti o a suffragio universale o non universale in base al reddito. Non è ancora ovunque suffragio universale, per esempio in Italia non c'è ancora, però insomma però si alcune categorie di cittadini votano, e quindi chi organizza il consenso, chi organizza il meccanismo di voto ha un potere. La camorra nel napoletano, secondo Ferdinando Russo, coglie questo, nel trasferirsi dalla campagna alla città, coglie questo elemento, la possibilità di utilizzare il sistema democratico, ossia il sistema del consenso, il sistema del voto, per farne il proprio potere. E secondo Ferdinando Russo, che ragiona intorno alla formazione della prima camorra, del primo brigantaggio, lo chiama così, oppure appunto camorra urbana nell'area del napoletano, come costituisce sulla base di movimenti elettorali, si costituisce proprio in funzione di produrre durante i momenti elettorali sacche di consenso attraverso aderenze, favori o anche intimidazioni per per far convergere i voti su alcuni soggetti che poi diventeranno appunto i dirigenti di quell'area cittadina oppure regionale, che poi appunto ricambieranno i favori fatti. Quindi questa analisi è molto interessante, che poi considerate che questo libro di Ferdinando Russo è del 1907, quindi è un'analisi molto interessante, vede lo sviluppo della camorra all'interno del sistema capitalistico nella fase democratica, cioè il voto è fondamentale per individuare i soggetti, e quindi chi controlla il voto controlla in realtà la politica e quindi anche il meccanismo economico. Dunque la camorra si colloca, si disloca lì sul terreno. Lui parla della camorra perché ha analizzato il napoletano, ma vale anche per la mafia e le altre strutture. Quindi questo cambiamento sostanziale da gruppi di la malavita, le organizzazioni diciamo di brigantaggio, le chiama così, che prima si muovevano su un terreno furto, rapina, le normali, e si diventano strumenti di produzione di consenso politico per necessità economiche, insomma per produrre potere economico, e dunque questo fatto rimarrà al primo posto. Poi verrà cancellato, fino ancora ad oggi si dicono tante altre baggianate. Comunque conclusa quindi quest'opera di costruzione attraverso i comportamenti, anche quelli femminili, anche quelli della criminalità organizzata, le analisi passano a ragionare intorno alla pena, e quindi comincia a nascere tutta la produzione teorico-ideologica della pena. Che cos'è la pena? Che deve servire? Lo Stato punisce, ma perché punisce? Si cominciano a porre questo problema, cioè che punisca non c'è dubbio, lo faceva prima il signorotto, poi il re, adesso lo fa lo Stato, Stato democratico, Stato come volete, insomma lo fa lo Stato. E perché? Si cominciano a porre il problema, ma perché punisce? A che serve punire? Come deterrenza per impedire che si sviluppi troppo i comportamenti anomali, d'accordo, però poi cercano, essendo gente che ragiona in termini economici, perché siamo nei primi del Novecento, già le società europee producono grandi quantità di merci, abbiamo un sistema di produzione e di consumo già molto avanzato, considerate che la prima guerra mondiale viene proprio, si produce, che di lì a poco, no, avverrà nel 13-14, proprio per distruggere grandi quantità di merci sovrapprodotte che avrebbero creato una crisi profonda, che tra l'altro creavano ormai ogni 5 anni. In quegli anni c'era una crisi devastante perché non c'erano gli ammortizzatori né sociali né finanziari per ammorbidire la crisi, e dunque le crisi erano devastanti. Bene, quindi allora si pongono anche in prova: che cosa tira fuori lo Stato, oltre punire, va bene, punisce, dicono, nessuno mette in discussione, ma che dovrà tirarci fuori? E viene fuori il meccanismo della pena come elemento per produrre corpi docili, cioè da uomini o donne dissennate che avevano comportamenti non compatibili con quel sistema, non solo evitare che facciano quei comportamenti, quindi io ti chiudo per evitare che tu continui a comportarti in maniera anomala, ma cerco di correggerti, cioè di modificare, come se fosse una macchina venuta male, no? Oppure un malato, ricordate il concetto di malattia che era venuto fuori nella fisiopatologia? Bene, quindi recuperano questi due concetti: tu sei una macchina venuta male, una macchina malfunzionante, io Stato ti correggo per farti diventare un operaietto docile, perché mi servono gli operai, un cittadino docile, una donna docile, socile e così via. E allora nasce il concetto di pena come rieducazione, come trasformazione del soggetto. Ecco, da qui viene fuori quindi tutto un grande lavorio intellettuale, per esempio c'è un testo interessante, tutto questo si svolge tutto nei primi anni del Novecento fino ad arrivare al grande crash in cui questi problemi vengono come dire, messi a soluzione con la grande primo massacro mondiale, uno dei massacri più devastanti, stante le armi di quel tempo, 5 milioni di persone morte uno per uno, cioè non tanto con i bombardamenti che allora non c'erano, ma proprio con gli ammazzamenti singoli, e quindi 5 persone uccise volontariamente uno dopo l'altro, una cosa devastante in un modo orribile. Allora si pongono e nascono per esempio i primi regolamenti carcerari, in cui dicono il carcere si oltre a prendere la persona e chiuderlo, nascono fuori prendendo dal modello americano i due modelli, che c'era quello diciamo di espiazione filadelfiano chiamato, in cui veniva relegato in il cosiddetto carcere cellulare, cioè in ciascuno veniva messo in un piccolo, in una piccola cellula cella, dove doveva con dei testi ovviamente biblici oppure religiosi, dove doveva riconsiderare il suo comportamento. Poi c'è l'altro metodo, quello di Auburn chiamato, ossia che invece attraverso il lavoro si tiene la gente a dormire anche in maniera, cioè in ogni cella, poi la mattina si prendono e si portano a lavorare, in modo che il lavoro, che sia utile o non utile, non ha importanza. Tutti abbiamo visto i film americani dove avete visto che facevano spaccare le pietre, probabilmente roba anche inutile, no? In quel modo, quando già c'erano le macchine per frantumare le pietre, quindi il lavoro era probabilmente spesso inutile, però serviva per addestrare alla disciplina del lavoro, perché si erano resi conto che oltre che punire come faceva il vecchio signorotto, cioè proprio come vendetta, la punizione, la pena poteva diventare utile dal punto di vista economico, e l'è diventata. Difatti in quegli anni che il carcere comincia ad assumere, siamo proprio nel periodo delle grandi crisi, che poi appunto la prima guerra mondiale sistemerà, e poi il passaggio dalla prima alla seconda, le crisi ancora devastanti con quella famosa del 29-30, ritenuta la famosa crisi economica eccetera, il carcere assumerà sempre più la funzione di regolatore del mercato della forza lavoro, ossia del mercato delle braccia. Il carcere servirà appunto a produrre operaietti, a produrne tanti, in modo che l'offerta di braccia sia sempre superiore alla domanda, all'esigenza dei padroni, in modo che il prezzo è basso, ma non di troppo, perché se l'offerta è troppa, cioè se le braccia che si offrono al lavoro sono talmente tante, il padrone chiaramente abbassa il prezzo, ma se lo abbassa di troppo, queste forze lavoro, questi operaietti che lavorano, poi non possono consumare oltre un pezzo di pane, e invece serve che comincino a consumare. Quindi come regolatore delle braccia, è lo stesso meccanismo che oggi hanno i CIE, sono i regolatori della forza lavoro migrante, che deve rispondere alle quote, perché i padroni ne vogliono lavoratori migranti, perché costano di meno, lavorano tanto, stanno buoni, non sono sindacalizzati, non fanno lotte per ora, prima o poi lo faranno, e però appunto i CIE che cosa servono? A regolare, dice no, siete troppi, una parte li butto fuori, oppure siete pochi, allora vi faccio la sanatoria, vi faccio entrare, e questo regola il mercato delle braccia lavoro. E quindi se c'è tutta questa casistica sul discorso della pena, ora considerate che l'Italia, che non era l'Italia già da tempo, alcuni prima dell'Unità d'Italia, che erano divisi in aree, insomma in ducati, granducati e altro, aveva già, essendo un paese molto sviluppato nel 600-700, come sapete, aveva individuato praticamente è stato il primo paese al mondo, qualcuno ne andrà fieri, però poi vedremo anche i motivi, che aveva abolito la pena di morte. Il Granducato di Toscana è stato, no? Esattamente Pietro Leopoldo, il Granduca di Toscana, personaggio ritenuto abbastanza famoso, aveva abolito nel 1786 la pena di morte. Il primo stato al mondo che abolisce la pena di morte è il Granducato di Toscana. E lo fa sicuramente perché è una persona illuminata, tutto quello che volete, però lo fa anche già da allora, pensate, nel 1700 era talmente avanzata, settori ancora risentiva della ricchezza e dello sviluppo economico dovuto ai comuni, Venezia, Genova e così via, no? Nel 500 uno dei paesi sicuramente il più industrializzato e il più avanzato d'Europa era l'Italia, però non era ancora unitario e quindi non aveva però delle grosse ripercussioni regionali. La Toscana, che aveva avuto questa grossa capacità, diciamo, di governo, individuava come la distruzione del soggetto, quindi la pena di morte oppure la pena soltanto afflittiva, come uno spreco di ricchezze. E quindi lo fa come ragionamento economico, certo c'è anche tutto il dibattito, però sostanzialmente l'aspetto economico è primo. Sì, quindi siamo non tutta l'Italia, perché non c'è l'Italia unita, però il Granducato di Toscana è il primo paese che abolisce la pena di morte, e però poi continua tutto quel dibattito intorno alla funzione della pena. La pena, ci stanno tutte le teorie retributive, quelle di cui parlano ancora i detenuti, pare strano, nel 2010 si parla della pena retributiva, significa vendicativa sostanzialmente, no? È un sinonimo di vendicativa, significa tu hai fatto del male, io ti restituisco tanto male. È una cosa arcaica, vecchissima, che però se i detenuti ne parlano vuol dire che la respirano così, perché oggi si respira questa cosa in carcere. Però è chiaramente sul piano del dibattito analitico, intellettuale, è stata abolita fin dalla, appunto, dalla fine dell'Ottocento, perché ne vedevano una insufficienza economica, cioè fare la vendetta non serve come deterrenza, perché i dati hanno dimostrato che non serviva come deterrenza, ma soprattutto era uno spreco economico. Le carceri costano, la polizia costa, i carcerieri costano, i secondini costano, i giudici costano, perché non tirarne fuori un vantaggio? Questo è il ragionamento che porta a umanizzare, tra virgolette, le carceri, a far diventare un soggetto economico, valido economicamente, ossia questa sorta di reinserimento sociale attraverso il lavoro, quindi costruire degli operaietti in grado di andare in fabbrica a lavorare disciplinatamente, eccetera, eccetera. Quindi nasce proprio in quel periodo lì, diciamo poco prima della prima guerra mondiale, poi la guerra mondiale rincasinerà tutto, però insomma, il